Buongiorno Chiesa, come state? Bene, che belli. Un attimo che mi organizzo. È sempre un onore stare qui e poter condividere con voi, che siete la mia famiglia, quello che è il messaggio che Gesù ha messo nel mio cuore, che lo Spirito Santo ha ispirato al mio cuore, e la preghiera di Gianluca non fa altro che veramente descrivere quello che è il mio desiderio, che è semplicemente quello di dare voce alle parole di Gesù, quello di dare voce a quella che è la volontà di Dio per me in primis e poi per tutti quanti noi che siamo qui. Quindi siamo pronti? Sì, siamo affamati della verità? Bellissimo. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete ai desideri della carne. Questo è stato l'ultimo versetto con il quale la settimana scorsa il nostro pastore ci ha augurato un buon lunedì. Quanti c'erano la settimana scorsa, sia la mattina che la sera? È stato meraviglioso come veramente il messaggio di Dio ha parlato proprio forte alle nostre vite. E questo era l'ultimo versetto: camminate secondo lo Spirito e non adempirete ai desideri della carne. Abbiamo visto come in Romani 7 è descritta perfettamente tutta la nostra natura umana, no? Quella natura un po' peccaminosa, quella situazione che insieme a Paolo, che viveva 2000 anni fa, oggi viviamo io e te, no? Che facciamo quello che non vogliamo fare e poi non facciamo quello che invece vogliamo fare, e ci troviamo nel bel mezzo di questo combattimento tra la legge della carne e la legge dello spirito. Ci ricordiamo, ma poi abbiamo visto la parte bella, io quando ascoltavo domenica scorsa, dicevo, ma quando arriva la parte bella di questo messaggio? La parte bella arriva, no? Ed è quando abbiamo letto che non c'è nessuna condanna per noi, quando abbiamo letto che possiamo, che è possibile vivere una vita santa, una vita integra, è possibile vivere un buon lunedì, è possibile stare al centro della volontà di Dio. E questo non per meriti, non perché noi possiamo sforzarci a seguire tutte quante le regole possibili e immaginabili, ma semplicemente perché lo Spirito Santo lavora in me e in te, lavora, trasforma i nostri modi di pensare, trasforma i nostri sentimenti, benedice, guida le nostre relazioni. Questo solo grazie e per mezzo dello Spirito Santo nella nostra vita. Amen? Abbiamo vissuto una buona settimana? Ok, va bene, questa sarà comunque buona, ok? Andiamo di gloria in gloria, va bene? Non è per mezzo di quanto noi possiamo essere bravi. Noi possiamo vivere una vita come Dio comanda, secondo la volontà descritta nei minimi dettagli, nella sua parola, nella Bibbia, non perché siamo bravi, ma per mezzo dello Spirito Santo nella nostra vita. Lo Spirito ci potenzia per conquistare quei territori che ci sono davanti. Lo Spirito ci qualifica per abbracciare tutte quelle vittorie, quelle conquiste che Gesù ha già preparato per ognuno di noi. Lo Spirito Santo ci abilita per vivere un matrimonio santo, per vivere delle famiglie salde, per essere una controcultura. No, dove c'è divisione, dove c'è odio, dove c'è rancore, dove ci sono un sacco di divorzi, dove ci sono aborti, dove c'è la guerra, lo Spirito Santo in noi ci abilita, ci potenzia per vivere una vita diversa, per vivere una vita secondo la volontà di Dio. E questo era proprio l'obiettivo che Paolo aveva quando ha scritto la lettera dei Galati. No? Proprio per dire questa cosa, questo tipo di vita è possibile, ma non per i tuoi meriti, non seguendo delle leggi, non offrendo continui sacrifici, ma è solo per mezzo dello Spirito Santo nella tua vita. Perché c'erano diversi, no, tra i Galati, nella chiesa dei Galati, che proprio questa cosa non è che non gli andava giù, non riuscivano ad accettarla. Perché, ascoltate bene, perché loro vedevano, e spesso anche noi vediamo, la legge come un qualcosa che ci frena dal peccare. Vediamo la legge, le regole, la scaletta da seguire come un qualcosa che ci previene dal peccare. Dice, no, allora la legge dice che devo fare questo, questo e questo, allora io lo faccio, così sono nella zona, no, tranquilla, dove non rischio di peccare. La legge mi dice questo, ma qui Paolo dice, non è più la legge che ti dice questo, ma è lo Spirito Santo in persona che ti frena dal peccare. È lo Spirito Santo in persona che ti dice dove devi andare, dove ti devi fermare, quello in cui devi credere, quello per il quale devi vivere la tua vita. Ed è lo Spirito Santo in te, in me, nella nostra vita, che ci protegge dal peccato. Non è più la legge, ma è lo Spirito Santo in persona. Abbiamo fatto un salto di qualità che non ci sono parole per descriverla. Amen? Quindi è questa proprio la missione che lo Spirito Santo ha con noi. È quella di farci vivere una vita che sia conforme a Gesù. Trasformare i nostri caratteri in base a quello che era il carattere, che è il carattere di Gesù. Trasformare i nostri pensieri in base a quello che è la verità biblica. In una parola, la missione dello Spirito Santo è quella di santificarci, di restaurare quell'immagine che noi avevamo quando Gesù ci ha creato, quell'immagine secondo la somiglianza e l'immagine di Dio. Lo Spirito Santo in noi fa esattamente questo. Lo possiamo leggere in 2 Corinzi 3,18, dovrebbe essere proiettato. E dice, e noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Perché possiamo vivere una vita equipaggiata dallo Spirito? Con che motivazione? Con questa. Per essere trasformati a immagine e somiglianza di Gesù. Ed è proprio per questo che c'è quel comando, quell'ordine da parte di Paolo. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Camminate. Sapete, camminare è un verbo, ok? Allora un po' di analisi grammaticale per cortesia. Camminare, voce del verbo camminare. Io quando faccio i compiti con Chloe, spesso analizziamo, no, le frasi, facciamo l'analisi grammaticale. E Chloe appena vede un verbo, subito mette una freccia e scrive azione, voce del verbo e poi qualsiasi sia quel verbo. Camminare è un verbo, implica un'azione. Implica un'azione volontaria e intenzionale. Noi, Chiesa, non siamo passivi all'opera che lo Spirito Santo vuole fare in noi. Non è possibile dire, vabbè, io continuo a fare la vita che facevo prima di conoscere Gesù, continuo a stare comoda, seduta, nei miei peccati, nelle mie relazioni compromesse, nei miei pensieri che non rispecchiano la volontà di Dio, continuo a stare comoda, seduta e aspetto che lo Spirito Santo si riveli a me come d'incanto. Non è così che funziona. Prima di tutto perché lo Spirito Santo non è una bacchetta magica, ma è Dio, è la terza persona della Trinità, è Dio e vuole di conseguenza una relazione con noi. Per questo vivere secondo lo Spirito, essere trasformati dallo Spirito non è un'azione passiva. Beh, aspettiamo questa rivelazione. Ma è un'azione, è uno stile di vita, è uno sforzo intenzionale e volontario, è un camminare, è un mettere un passo dopo l'altro nel seguire quella che è la volontà dello Spirito Santo per la mia vita e per la tua vita. Amen? Camminare è la nostra parte. È quello che noi siamo stati chiamati a fare per vivere la santificazione che però è operata interamente dallo Spirito. Lo Spirito fa questo miracolo di santificazione, di trasformazione in noi, mentre noi camminiamo con Lui, lo conosciamo, come abbiamo sentito la volta scorsa, lo coinvolgiamo, gli chiediamo, gli confessiamo i nostri dubbi, camminiamo con Lui. Camminare è un verbo, è un'azione, non è un qualcosa di passivo vivere con lo Spirito Santo, ma è attivo, è relazionale. Io cammino con lo Spirito Santo, situazione dopo situazione, scoglio dopo scoglio, relazione dopo relazione, e man mano che cammino con Lui, Lui completa l'opera di santificazione che ha incominciato nel momento in cui ho accettato Gesù nella mia vita. Abbiamo accettato Gesù nella nostra vita. Amen? Camminare è un verbo presente, attivo. Qua adesso faccio vedere un po' che sono andata a scuola, per cortesia. Camminare dal greco, peripateo, è scritto nella versione originale, no? Sappiamo che il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, in greco koinè, ed è scritto in una forma attiva, progressiva, in altre parole è camminando, e indica un processo, indica una crescita, indica proprio quello che ho detto prima, situazione dopo situazione, esperienza dopo esperienza, caduta dopo caduta, grazie allo Spirito Santo che ci rialza, ci perdona, ci dice va bene, non fa niente, dai, alzati, basta stare seduto nella tua situazione di sconfitta, reagisci, io sono qui con te, io sono qui per te. In altre parole, nella salvezza, quando noi siamo stati salvati, lo Spirito Santo ci ha convinto il nostro cuore, e la nostra parte è stata crederci, è stata mettere fede in questo, nella santificazione, in questo percorso. L'opera dello Spirito Santo è che ci trasforma, ci santifica, ci guida, e la nostra parte è ubbidire. La nostra parte non è stare seduti, fermi, ad aspettare, ma è reagire, alzarsi, vivere attivamente, camminare, ubbidire alla voce dello Spirito. Quanti lo vogliono fare? Quanti vogliono vivere questo tipo di vita? Non ad aspettare la rivelazione che il pastore ha avuto. Vabbè, lo Spirito Santo parla solo al pastore. Non è così. Lo Spirito Santo parla a te come parla a chiunque altro. L'importante è non stare seduti, passivi, ma camminare, ascoltare, sintonizzare il proprio cuore alla sua voce. Amen? Camminare, camminate secondo lo Spirito. Camminare è un verbo attivo, non è un qualcosa di metaforico, è un qualcosa di molto pratico. Camminare è passo dopo passo, cioè non c'è niente di metaforico. E forse questo concetto può essere ancora ulteriormente spiegato dal verso che leggiamo insieme, in Efesini 5, 18. Ci siete, chiesa? Efesini 5, 18. Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Allora ho studiato un po' e questa parola ripieni, siate ripieni, si può tradurre con aggettivi come siate riforniti, siate influenzati, o ancora meglio, questa è la mia preferita, siate condizionati. Allora proviamo a leggerlo insieme. Non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza. Tra parentesi, se bevi troppo vino, non lo bere. Vabbè, tra parentesi. Ma siate riforniti di spirito. Siate riforniti. Non vi dà l'idea di un qualcosa che è continuo, di un qualcosa che non è un evento. Cioè lo Spirito Santo non ti riempie una volta, non ti parla una volta nella tua vita e stai bene fino a quando muori. No, lo Spirito Santo continuamente ti vuole rifornire della sua presenza in te, continuamente ti vuole rifornire della sua saggezza, della sua guida, del suo discernimento, della sua pazienza, della sua gioia, continuamente ti vuole rifornire. Ancora, ma siate condizionati dallo spirito, di spirito, dallo spirito. Ora, la domanda che io ho fatto alla mia vita, a me stessa, quando ho letto questo, è: Noemi, che cosa condiziona, che cosa influenza le tue azioni? Che cosa spinge, che cosa condiziona i tuoi pensieri? Da cosa, da chi sono influenzati i tuoi sentimenti, le tue emozioni? È stata una domanda bella tosta questa settimana. Perché la risposta, ahimè, non è stata sempre: sei tu, Spirito Santo, solo tu. E lo dico, lo confesso, perché so di non essere l'unica, quindi non mi guardare così, che siamo tutti nella stessa barca, per cortesia. Essere ripieni dello Spirito Santo, essere ripieni, riforniti dello Spirito Santo, non è un qualcosa di statico. Come se tu, come quando riempi un bicchiere di acqua, no? Allora, riempi il bicchiere è pieno e rimane così. Non si parla di questo tipo di riempimento, ma ho letto questo articolo e questo insegnante della legge proprio descriveva il riempimento dello Spirito Santo più come il vento che riempie le vele di una barca. Il vento che riempie le vele di questa barca e che spinge la barca verso nuovi territori, che spinge la barca verso un'altra zona del mare, che spinge la barca verso la destinazione. Questa è bellissimo, no? E spiega proprio bene l'opera che lo Spirito Santo fa nella nostra vita. Non è che ci riempie una volta e basta, anche perché poi l'acqua diventa calda, è brutta da bere, è statico. No, è più come quel vento che spinge le vele della nostra vita e ci porta di territorio in territorio, di conquista in conquista, ci porta ad essere conformi all'immagine di Cristo. Attenzione, quest'altra non è una metafora. Vabbè, come si fa ad essere conformi a Cristo? Se la parola di Dio lo dice, allora tu e io non siamo nessuno per metterlo in discussione. Come ci piace leggere l'Eterno è il mio pastore e nulla ci mancherà, ci deve piacere anche il fatto che lo Spirito Santo ci permette di guardare a faccia, a volto scoperto, come in uno specchio, e la gloria di Dio, e ci permette di essere conformi in tutto e per tutto all'immagine di Cristo. Amen? E la nostra vita, le vele, se vogliamo portare avanti questa immagine, le vele della nostra vita possono essere ripiene di tante cose. Possono essere ripiene di paura, possono essere ripiene di preoccupazione, possono essere ripiene di rancore, di inimicizia, di mancanza di perdono. Tu lo sai, io lo so benissimo, quello che riempie le vele della mia vita. Oppure le nostre vele possono essere ripiene dello Spirito Santo, che ci muove, che ci spinge verso la santificazione e ci equipaggia a vivere una vita santa, ascoltate bene, che imita il Figlio e che compiace il Padre. E ci abbiamo Dio in tutta la sua interezza. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Questo è il Vangelo, questo è vivere una vita secondo l'intenzione che Dio aveva quando ti ha creato, quando mi ha creato. Ora, come avviene tutto questo? Cominciamo ad essere un po' pratici. Quanti vogliono sapere come avviene questo fatto delle vele? Per piacere, Noemi, dimmelo come avviene. Non lo so. Non lo so, perché proprio mercoledì, nella squadra dei settori, con il pastore, stavamo proprio riflettendo sul fatto che in realtà la Bibbia non ci mostra, non ci presenta una bella scaletta. Vedo Elisa che è già pronta a prendere proprio gli appunti, la scaletta. Non c'è questa scaletta. Secondo la quale noi possiamo fare determinate cose per poter avere la rivelazione dello Spirito nella nostra vita. Non c'è questa scaletta. Chiaramente possiamo pregare, possiamo digiunare, come abbiamo ascoltato, possiamo ricercare lo Spirito, possiamo coinvolgere lo Spirito nella nostra vita, ma la realtà è che sta a me e a te capire come fare questa cosa nella nostra vita. Perché? Perché lo Spirito Santo non è una macchinetta il cui funzionamento è generale e va bene per tutti. Cioè spingi play e la musica esce. Lo Spirito Santo non è questo. Lo Spirito Santo, come ho detto prima, è una persona. Allora io mi rapporto a Gabriele in una maniera molto diversa dalla quale mi rapporto a Micaela. Perché? Perché io sono una persona, loro sono due persone completamente diverse l'uno dall'altro. Allora il mio modo di parlare con Gabriele e di scherzare e di stuzzicarlo è molto diverso, deve necessariamente essere molto diverso dal modo in cui lo faccio con Micaela. Sono solo io? No, tutti quanti noi abbiamo modi diversi. Datemi un accenno che mi state seguendo, ok? Lo Spirito Santo fa uguale, è così. Il suo modo di parlare al mio cuore è diverso dal modo che lui ha per parlare al tuo cuore. Di conseguenza è ovvio che io nella mia vita, in base a chi sono, in base alle caratteristiche con le quali Dio mi ha creato, io devo scoprire per me che cosa significa coinvolgere lo Spirito Santo dal lunedì alla domenica, dalla mattina alla sera. Devo capire io che cosa significa seguire le istruzioni che lo Spirito Santo ha per me, perché probabilmente sono diverse da quelle che ha per te in questa stagione. Però ho capito una cosa. Lo Spirito Santo si rivela, come abbiamo detto, in una maniera personale e quindi diversa uno dall'altro, ma una vita, ascoltate bene, una vita che cammina secondo lo Spirito porta gli stessi risultati, ha le stesse caratteristiche, ha gli stessi colori, ha lo stesso suono. Lo Spirito si rivela diversamente a me e a te, ma una vita che cammina secondo lo Spirito comporta, presenta gli stessi risultati. Vogliamo scoprire quali sono questi risultati? Anche perché è importante capire quali sono questi risultati, perché sono proprio questi, in realtà, se ci pensate, a diventare il metro per farci comprendere se effettivamente stiamo camminando secondo lo Spirito. Perché se camminare secondo lo Spirito porta a determinati risultati, se nella mia vita non ho questi risultati, ci deve essere un problema. Vuol dire che non sto camminando secondo lo Spirito. Ha una certa logica, giusto? Quindi è buono che conosciamo questi risultati, così che possiamo fare un po' un check-up, no? Del nostro cuore, delle nostre vite, e possiamo allinearci, non sentirci terribilmente in colpa, sentirci dei falliti, sentirci proprio dei credenti che sono un po' testa dura. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è semplicemente vedere il punto nel quale siamo arrivati e da lì proseguire insieme. Sì? Benissimo. Quindi, tre sono questi, chiaramente, sono tre. Tre azioni che contraddistinguono una vita che cammina secondo lo Spirito. Efesini 5,19. E stiamo continuando quello che è il passo che abbiamo letto, no? Efesini 5,18 dice: non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito come? Numero uno, parlando a voi stessi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e sammeggiando nel vostro cuore al Signore. Ora, che cosa vi ispira questo? Cantando, salmeggiando, proclamando inni, cantici. Qual è il sentimento? La gioia! Questo è il sentimento! Una vita che cammina secondo lo Spirito è una vita gioiosa. È una vita, ascoltate bene, che incoraggia. Ed è una vita che parla positivo, che dice cose buone, che benedice la propria vita e benedice anche la vita che è di coloro che ci circondano. È una vita gioiosa, tra parentesi, la gioia è un frutto dello Spirito. Vi ricordate? Galati 5. La gioia ti porta inevitabilmente ad incoraggiare, a parlare vita su te stessa e su chi ti circonda. Chi cammina secondo lo Spirito non perde l'occasione di parlare vita, di incoraggiare, di edificare, di costruire. Chi cammina secondo lo Spirito non si sente minacciato dai successi altrui, non si sente geloso, invidioso, ma è gioioso, fa il tifo, sostiene le persone con le quali, no? Delle quali siamo circondate. Questo è un risultato del vivere secondo lo Spirito. Incoraggia, di parole positive. E una vita secondo lo Spirito non è invidiosa, ma è generosa di parole piene di amore, di gioia, di pace, di pazienza, di benevolenza, di bontà, di fedeltà e di autocontrollo. Allora, il frutto dello Spirito, Galati 5. Le nostre parole devono esprimere, devono essere colorate del frutto dello Spirito. Parla parole d'amore, proclama parole di pace, fa sì che quando apri la bocca le persone attorno a te si sentano gioiose e non atterrate, non scoraggiate, non fallite, perché c'è grande potenza in una parola di incoraggiamento, in una parola detta con gioia, in una parola positiva. Questa parola può sprigionare grandi benedizioni. Sapete, lo Spirito Santo è descritto come il consolatore, come quello che conforta, che consola, no? Che incoraggia, che edifica, che costruisce. Allora chi cammina secondo lo Spirito non può che fare altrimenti, no? La logica. L'incoraggiamento fa tre cose: guarisce i cuori. E quanti non l'hanno sperimentato nella propria vita? tutti quanti ci siamo sentiti ad un certo punto nella nostra vita un po' giù, un po' che avevamo fallito, un po' che non ci sentivamo capaci, un po' che ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti e stavamo mollando. E poi, in quel momento, è venuto qualcuno, una sorella, un fratello, che ha detto: ehi, ce la fai, dai, su, coraggio, tu sei capace, Gesù può in te e attraverso di te, sei preziosa, sei bello, sei forte, sei fedele, coraggio, alzati, lo facciamo insieme. E questa parola di incoraggiamento, che cosa ha fatto? Ha guarito il nostro cuore. E la Chiesa deve essere il contesto nel quale l'incoraggiamento deve essere proprio alla portata di tutti e deve essere una costante del nostro modo di parlare, perché noi siamo persone che camminano secondo lo spirito, sì, di controcultura, dove tutto fuori ti dice che non ce la fai, che non troverai lavoro, che la pensione te la puoi scordare e che non vale la pena che studi, tanto non ti serve. Ma tu pensi che io non lo so, che non lo guardi il telegiornale? Allora, se vuoi dire qualche cosa, dimmi qualcosa di diverso. Io ne guardo tanti di telegiornali, per colpa di mio padre, che ti incoraggio, papà, a guardarne sempre di più. E io insieme a te. Siamo generosi nel nostro modo di incoraggiarci e di edificarci l'uno con l'altro. Amen? Chi lo vuole fare? Chi lo vuole? Bellissimo, se tu lo fai, la tua sfera di influenza ne sarà benedetta. La tua famiglia ne sarà benedetta. Il tuo matrimonio rifiorirà. Dove parole negative sono state confessate sul tuo matrimonio, o sulle tue amicizie, o sui tuoi compagni a scuola, o sulla tua vita, proclama l'incoraggiamento che Gesù ha già scritto nella tua nella sua parola. Incoraggia e incoraggiati. Amen? L'incoraggiamento confessa la verità di Dio che non sempre corrisponde alla realtà che vediamo con i nostri occhi, alla realtà immediata. L'incoraggiamento dà voce alle promesse di Dio, articola la verità di Dio che spesso non è direttamente davanti ai nostri occhi. Cosa voglio dire? Io tante volte, e dico questo veramente solo per fare degli esempi, perché io ho tantissimo da imparare in questo, però tante volte, non so, parlando anche con Elisa, no? Che sappiamo che suo marito sta conoscendo Gesù, no? E si sta innamorando di lui piano piano, diciamo, sta prendendo un po' il suo tempo, però lo sta facendo. E tante volte io mi sono trovata a dire ad Elisa: Elisa, tuo marito accetterà Gesù, tuo marito vivrà una vita per Gesù, tuo marito sarà un uomo, una colonna nella nostra chiesa. Perché? È la verità, cioè, scusate, è la realtà che i nostri occhi, che gli occhi di Elisa vedono in questo momento? No, ma è la verità. E rimane tale, che la vediamo o meno. Facciamolo, facciamolo Chiesa, incoraggiamoci, proclamiamo la verità di Cristo, anche quando non è direttamente visibile. Incoraggiare con gioia, perché tu non è che incoraggi che sei triste, cioè, no, è un po' difficile incoraggiare quando sei triste, e la gioia è la componente, diciamo, costante. Incoraggiare con gioia è la conseguenza dell'opera dello Spirito Santo, che ci trasforma a immagine di Cristo e che compiace il Padre. Gesù era il più grande degli incoraggiatori. Cioè, a Pietro, veramente che parlava la verità e non descriveva la realtà che aveva davanti agli occhi. Facciamolo, facciamolo. Due, adesso c'ho 1:56. Ce la possiamo fare. Numero due. Quindi l'incoraggiamento è una conseguenza di parlare, del vivere, del camminare nello Spirito. Numero due. Efesini 5:20. rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel nome del nostro Signore Gesù. Una vita che cammina secondo lo Spirito è una vita che dice grazie, grazie, continuamente. Che quando ti dicono grazie tu rispondi no, grazie a te. Grazie, quanto è bella questa parola e tu la dici. Una vita, cioè il ringraziamento è una componente di una vita che riconosce, Chiesa, ascoltami bene, che riconosce che tutto quello che abbiamo, tutto, da mangiare, da bere, l'aria che respiriamo, le relazioni che abbiamo, le risorse che abbiamo, i vestiti che indossiamo, la casa nella quale abitiamo, tutto è un dono di Dio. E tu quando ricevi un dono, che cosa dici? Grazie, grazie, che bel modo di vivere. E sapete, è così potente questa cosa, perché il ringraziamento spegne ogni invidia, spegne ogni amarezza, zittisce ogni ira e cruccio, zittisce ogni maldicenza, ogni critica, ogni parola negativa. È difficile vivere una vita di ringraziamento e poi comunque maledire o comunque essere invidioso. Cioè le due cose non combaciano, non possono coesistere. Perché io quando sono grata per quello che Dio ha dato alla mia vita, non voglio quello che ammiri. Perché sono grata di quello che Gesù ha dato alla mia vita e sono contenta di quello che Mary ha, quindi ringrazio per quello che io ho e incoraggio Mary per quello che lei ha. Viviamo questo tipo di vita, che è più bello. Ringraziamo Dio, ringraziamoci gli uni gli altri. Ringrazia il tuo leader, ringrazia tua madre, tuo padre, tua moglie, tuo marito, ringrazia. Non dare per scontato che loro facciano parte della tua vita, perché è un dono. E come tale devi trattarlo, per questo devi ringraziare. E io per questo volevo, davanti a tutti adesso, ringraziare mamma, papà, Walter, vabbè, in Australia, Gabriele e Cinzia. Ma grazie, perché tu, con la tua dolcezza riesci a placare il mio spirito un po' così. Grazie che c'hai pazienza, grazie che mi ascolti sempre, grazie che non ti stanchi mai, grazie che non ti stanchi mai di incoraggiarmi, di mostrarmi quello che è il tuo amore con Atipra, grazie che cucini sempre per me, grazie che ti prendi cura di me. Papà, grazie perché tu sei un esempio di fedeltà. Nei momenti belli e nei momenti brutti, nei momenti comodi e nei momenti difficili, rimani fedele a Dio, rimani fedele a noi come famiglia e rimani fedele alla Chiesa. Gabriele, grazie perché io con te mi diverto, perché ti voglio troppo bene. Grazie che mi mandi i video per farmi semplicemente ridere. Grazie perché ci tieni a me, che sei geloso di me, mi fai sentire preziosa. Grazie Cinzia. Grazie perché sei generosa, grazie perché usi quello che c'è nelle tue mani per benedire gli altri, lo fai con le tue risorse, lo fai con il tuo lavoro, lo fai con nelle tue amicizie, lo fai in noi come famiglia. Grazie per la tua generosità, grazie perché non perdi mai occasione di benedire con atti pratici chi ti sta intorno. Questo non sono io, perché io faccio quello che non voglio fare, non faccio quello che faccio, più o meno. Questo non sono io e chi mi conosce lo sa benissimo, ma io voglio camminare secondo lo Spirito e la mia vita deve essere colorata di incoraggiamento, di ringraziamento. e di sottomissione. Efesini 5:21. Sottomettetevi gli uni gli altri nell'amore di Dio. Galati 5:13 la mette così: servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Una vita che cammina secondo lo Spirito è una vita che si sottomette, che ama gli altri e che serve gli altri. Perché? Perché questo imita l'esempio di Gesù. Gesù, che non considerò l'essere uguale a Dio come qualcosa alla quale aggrapparsi, ma svuotò se stesso, prendendo forma di uomo. E avendo forma di uomo, trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, diventando ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Sottomettersi, servire, è la conseguenza dell'opera che lo Spirito Santo sta facendo in noi. Ci trasforma ad immagine di Cristo e compiace il Padre. Sottomettersi, e con questo voglio concludere, sviluppa, promuove delle relazioni sane. Perché quando io non voglio il mio meglio, ma voglio il meglio di chi mi sta accanto, la relazione funziona. Perché non c'è egoismo, perché non c'è invidia, perché non c'è maldicenza, che tra parentesi, Efesini 4:30 dice: non contristate lo Spirito, tra di voi non ci sia nessuna amarezza, ira, cruccio, maldicenza, parole negative, malizia. Queste cose sono le cose che contristano lo Spirito, che non ci fanno camminare secondo lo Spirito. Invece io quando mi sottometto, quando incoraggio, quando ringrazio, non sto facendo altro che alimentare il mio spirito dello Spirito di Dio. E non sto facendo altro che far sì che le relazioni che io vivo siano sane. E Chiesa, relazioni sane fanno famiglie sane. Famiglie sane fanno una Chiesa sana. Una Chiesa sana è una Chiesa che cambia il mondo. Amen? Amen? Camminate secondo lo Spirito. Camminiamo secondo lo Spirito e non adempiremo ai desideri della carne, perché saremo troppo impegnati ad incoraggiarci l'un l'altro, saremo troppo impegnati a essere grati a Dio per ciò che ci ha dato e saremo troppo impegnati ad amare, a servire, a sottometterci l'un l'altro. Amen? Perché non ci alziamo in piedi? Signore Gesù, io ti voglio ringraziare perché tu ci hai dato il più grande esempio e Gesù, tu non ci lasci da soli per seguire questo esempio, ma Spirito Santo, grazie che tu ci sei e riempi la nostra vita e ci guidi, ci istruisci, ci ammaestri affinché possiamo essere conformi all'immagine di Cristo e possiamo così compiacere te, nostro Padre. Signore Gesù, io ti prego di aiutarci a vivere non secondo quello che i nostri occhi vedono, ma a camminare nello Spirito. Gesù, aiutaci, Spirito Santo, aiutaci a parlare positivo, ad incoraggiarci, a ringraziarti, a vivere una vita colma di ringraziamento, a non desiderare le cose che gli altri hanno, ma ad essere contenti di quello che tu ci hai dato. Gesù, aiutaci ad amarci, però di quell'amore che tu hai mostrato di avere, non di un amore egoistico, non di un amore macchiato, ma di un amore integro e santo, come quello che tu hai versato per noi. Grazie Spirito Santo perché lo fai. Grazie perché in questo momento stai parlando, stai mostrando le aree della nostra vita dove dobbiamo camminare, dove dobbiamo correre con te, secondo la tua volontà. E grazie per la vita straordinaria che tu hai per noi. Una vita che non adempie i desideri della carne, ma una vita che è al centro della volontà di Dio, per noi singolarmente e per noi come Chiesa. Una Chiesa piena di fede dice Amen.